E mio vedere con te altro occhio umano, ora altro da me. Non voglio, no, no, no, il tuo sguardo io che coi miei occhi sono un mistero. E tutto coi tuoi sguardi, amico eroe, è troppo. Sono due visioni. Io che fiore di visioni, visioni di canzoni vesto di te. Ora vego con te, sguardo d'amico, eremite immagini che non dico e scrivo fini di due in arte, ove ho passaggi onirici, sono vino alle voci e testi lirici. Ho di te amor lei astratta che è sguardo di moltitudine.